4 mattino di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Che è stato fatto da Berlusconi in tutti questi anni, chi paga gli italiani della figura che hanno fatto fare in tutto il mondo al nostro paese, chi paga tutto questo? Il problema è un altro, che quando senatori della Repubblica spacciano le nipoti, spacciano delle escort per nipoti, il Presidente del Consiglio non lo può sapere qual è la verità. Punto. E lo fanno per ringraziarsi il Presidente Berlusconi. Santoro, sì. Dovresti vergognarti per quello che sei. Tu fai l'informazione e scrivi su dici cazzate, quello che ti ha spaccato il quadro sulla testa, mi dispiace che ti ha fatto poco male. Hai capito? Sì, te la doveva spaccare la capoccia, perché hai fatto un'informazione faziosa, avete tirato merda addosso a Stomo, gli avete fatto 10 anni di torture, tu e Santoro e l'amici vostri. Va bene. Comunisti schifosi. Bravo! Sei un comunista schifoso, capito? Tu la democrazia non sai neanche tossarti a casa. Ma danna a far culo, ce l'hai rovinata la giornata. Berlusconi fino adesso, tu e Sartori e quell'altra merda dietro avanti. Nothing's gained, nothing's lost. Siamo ripiombati nel passato. Mi sono svegliato questa mattina e ho letto: scendo in campo. Porca miseria, scendo in campo, ma riscendo in campo. Siamo tornati con le fazioni, le feste. Silvio, ma comunista era l'inviato di Santoro. Comunista di merda, fazioso, tu e Travaglio, Santoro. Siamo tornati lì. Paginate oggi di interviste. Chi paga, chi non ripaga. Assolto, non assolto. Pannella che dice Berlusconi come tortora. Vabbè. È questo. Goodbye Ruby Tuesday. Allora, sono le 6:33 minuti, siamo ripiombati. Questa Italia veramente ogni 3 mesi, ogni 4 mesi, periodicamente sembra ripiombare nel passato. Sai, uno sembra che ci sia un elastico di quelli lunghi, no? Uno cerca di correre, ti tirano indietro, e non riesci a fare un passo in avanti, niente. E siamo tornati allora, scendo in campo, riscendo in campo, fa bene, fa male, i giudici, la giustizia, orologeria, ringrazio i giudici, non ringrazio i giudici, chi ripaga Berlusconi, chi non ripaga Berlusconi, ce la farà Berlusconni, non ce la farà Berlusconi. Silvio. E intanto il Milan va sempre a cagare, cioè, proprio diciamolo. Ecco, vabbè, alle 6:33 minuti, dai, questo è 24 mattino, saluto Lorenzo Nespoli, scusate lo sfogo, ma ieri ho visto una straordinaria partita di calcio, il calcio quello con la C maiuscolo, Chelsea, Paris Saint Germain, ho visto Mourinho uscire dalla Champions League con i gol di Thiago Silva, ex milanista, e quindi mi sono un attimo, vabbè, dai, Lorenzo Nespoli l'ho salutato, l'alpino Peter Walter Bescapè qui col suo bombardino. Ci siamo fatti anche un selfie alle 5:30, l'abbiamo messo sul mio account Twitter Alino Milan per dire abbiate pietà di noi, soprattutto di me. Il Parlamento può aprire, dai, che ci sono qui il nostro direttore, il nostro direttore Angelo Maria Perrino, è il direttore di affariitaliani.it, che è pronto, è con noi. Ciao. Eccomi. Direttore, eccoci. Ciao, qua. Buongiorno, ciao. Eccoci. Tutto bene? Sì, anche qui si avverte il senso del grande ritorno, sì. Il grande ritorno, ma che c'hai, le fanfare sotto, no? No, forse sì. è la nostra, sai che ti presento, Angelo Maria Perrino? Sì. Sai che ti presento? Dai, dimmelo. L'Aurora! Aurora Lussana, la direttorissima per sempre per noi, anche se hanno chiuso la Padania. Un ferito la memoria. Buongiorno a te, caro Milan, e un caro saluto, benvenuto al direttore di Affari Italiani. Sei... Ciao, ciao Aurora. Ma sei raffreddata? Ci sono un po' di correnti, sì. Ah, battutona, Perrino, le correnti della Lega, le correnti. No, qui sono tornata a Bergamo, mi sono ammalata. Ah, vabbè, attenzione. Qualcuno le dosi. Vabbè, ma qui siamo ormai al cabaret allo stato puro. Siamo allo Zelig, non siamo a Radio 24. Vabbè, aggiungo io un po' di olio di ricino. Noi passa tutto. Sì, Salvini chi può. Sì, Salvini chi può. Capito, Aurora? Olio di ricino e passa tutto. Ci salviamo. Dittatori. Sì, sto vedendo proprio il grande dittatore mentre ci troviamo. Ah, stai vedendo il grande dittatore con Charlie Chaplin? Capito. Merita. Chissà perché. No, controllo. No, sono in trasferta a Bergamo, ammalata, però allora arrivo a casa ieri e mia mamma mi dice, è casino in Lega, e hai detto abbastanza, però ho letto su Affari Italiani, sì, che Zaia, anche se si candida Dosi, ce la fa, ce la fa. Affari Italiani. Ah, il sondaggio, d'altronde come dice Salvini, Zaia batterebbe anche Gesù Bambino. Sai, caro Perrino, cosa risponde oggi Tosi su Repubblica? Stia attento a queste gufate clamorose. Ma davvero avete un sondaggio che vince Zaia comunque? Sì, sembra che la Moretti, nonostante appunto dicano che frequenta tanto il parrucchiere, però non ce la fa. Zaia è una macchina da guerra, sì. Ma se si candida Tosi, cioè, perché la domanda è quanto vale Tosi, cioè quanti voti può sottrarre a Zaia? Quanti della Lega seguono Tosi? Ecco. Al momento non c'è partita, poi se Tosi svilupperà una sua piattaforma credibile, come si dice, vediamo, ma al momento Zaia è tranquillo. Però siccome vogliamo rendere la giornata di Aurora molto molto soave, molto lieta, molto dolce, eccoti qua un bel Tosi, in varie salse. Tosi, la Lega è dittatoriale, ma la Lega era il suo partito fino a 2 giorni fa, vabbè, senti Tosi, Controllo dittatoriale della Lega Nord è una scelta che fa Matteo Salvini e se ne assume la responsabilità. Eccolo qua. Aurora, ma dai, spiegaci un attimo. Tu avevi proposto la ceretta a caldo per Tosi e per chiunque volesse cercare di far perdere Zaia. Dai, vi siete liberati di un peso? Dicelo. Ma guarda, Flavio Tosi lo conosco da una vita, una persona straordinaria, un eccellente sindaco, ti dico la verità, a me dispiace per com'è andata, però insomma si è fatta chiarezza, Tosi gioca per un'altra squadra, la sua fondazione dei Fari è composta anche da persone che io conosco, anche alcune molto valide, è un'altra partita quella. Ecco, però ti dispiace, però come dire, sì. i rami secchi vanno tagliati. Ma la strategia di Salvini è chiara, e a differenza del PD che sono lì rogne tutti i giorni, basta, insomma abbiamo evitato un'agonia che ci avrebbe anche un po' resi ridicoli, no? Poi è così, però, Perrino, è un po' dittatoriale, ma non lo dico in senso, cioè si controlla il partito in maniera, hai capito? Il PD litigano, e qua invece uno, no? E via, fuori di ball. Sì, sì, mi diceva l'altro giorno Giancarlo Giorgetti, che è un po' l'uomo forte della Lega, basta, ci sta portando molto disdoro, molta difficoltà di comunicazione, di immagine. Quindi? Il caso va chiuso e l'hanno chiuso. Devo dire che da questo punto di vista mi spiace per Tosi, concordo che è un uomo di qualità, però ci vuole una Lega che vada dietro al suo leader, il quale l'ha portata a livelli impensabili e mostra di avere una bella visione delle cose. Dunque la fiducia a Salvini è un atto dovuto in questo momento. Questo l'abbiamo archiviato. Io però capisco che tu, Milan, sei per la modernità liquida, sei per il relativismo culturale, però ci sono ancora dei movimenti ortodossi. C'è una verità e si difende quella verità. Io capisco che a te il dogma crea inquietudine, però insomma è anche bello in un'epoca come la nostra che ci siano dei un po' il dogma mi crea inquietudine, effettivamente un po'. Per quello io non sono, la gente non ci crede, ma per quello io non sono di alcun partito, perché io non potrei mai stare in nessun partito, perché dovrei condividere il 100% di quello che un partito dice. Magari un partito dice delle cose buone e poi dice delle cose sbagliate, e io non riuscirei. Invece gli elettori si vogliono anche affidare a dei movimenti politici che siano un po' granitici, no? Che siano compatti, che sappiano muoversi in maniera univoca e insomma che non creino queste ansie. Ti piace anche il dittatorello fiorentino, come lo chiami tu, eh? Tu lo disprezzi ma un po' lo apprezzi, cioè non ti piace, però dici si fa così. Lui rimanda la tradizione della signoria fiorentina, che ha una sua storia, una sua nobiltà, quindi insomma va bene. Finché si fanno i dittatori a casa va bene, poi lo fa un altro e non va bene. La domanda, Alino, da porre ad Aurora è: quanto spago ha Tosi a questo punto? Cioè che cosa farà e se ha prospettiva davanti o se è finito? Chi lo sa? Aurora, che dici? Tu che lo conosci bene. Si candida governatore. Ha detto che ha bisogno di tempo per capire. Ma tu lo sai, dai. Ma non lo so. Magari ti troviamo in lista con Tosi governatore adesso. Diccelo. Ci sono dei componenti del Faro che si sono già candidati alle prossime amministrative. Diccelo, dai, Tosi si candida o no? Lo sai. Ma non lo so. Ma fai una previsione, dai. Credo di sì. A Spago davanti a sé ha prospettive, o farà come tutti quelli che hanno fatto scissioni in Italia, leggendo la storia della Lega, nella Lega non c'è salvezza, e il Veneto lo insegna. E questa è dogmatica, molto cosa. Cioè, fuori dalla Lega non c'è salvezza, hai sentito Perrino? Apocalittico. No, però Tosi effettivamente è il sindaco di Verona, comunque non è straordinariamente capace di fare il sindaco, ha preso 100.000 voti di preferenza a Tosi alle scorse europee, quindi insomma voglio dire è molto amato evidentemente in Veneto, ma tu dimmi un leghista che si è salvato fuori dalla Lega. Allora, questo è vero, anch'io sono convinto che Tosi i Pagliarini, Madonna, sì. Ma no, dai, Comincini, no, poi chi è che c'era? Vabbè, ma noi siamo partiti da Berlusconi, io vorrei, non potete esibervi da un giudizio su Berlusconi. Angelo Maria Perrino, ritorno in campo, tra l'altro c'è straordinario l'avvocato Coppi, ha fatto due interviste dicendo l'unica strategia era ammettere e riuscire a far capire che Berlusconi non era convinto della maggiore età, cioè non sapeva della maggiore età di Ruby. Tra l'altro, rubando una straordinaria frase a Jack Nicholson in Qualcuno volò sul nido del cuculo, ha detto aveva 17 anni e 10 mesi ma andava per i 24, Coppi, no? dal fisico, e quindi... Però ha detto Coppi, ha fatto capire che sì, c'erano delle cene in cui Berlusconi se la vedrà in confessionale, questa cosa non conta, Perrino. Sì, il processo, come sappiamo, è un tecnicismo. Dunque nulla è stato tolto al racconto di quelle notti, però i reati devono essere delle fattispecie molto precise. La Procura di Milano si è legata a questo reato, cioè il sesso con Ruby, e quello su quello è scivolata la difesa per intero impianto accusatorio. È un tecnicismo clamorosamente sbagliato. Bravo Coppi, che ha contrario di Ghedini, ha estrapolato questo concetto e ci ha messo il piede. Certo, anche perché voglio dire, ha detto Coppi, gli hanno chiesto: ma lei ha ammesso che c'era prostituzione ad Arcore? Vabbè, ma sì, quello non era il punto. Il punto, esatto, era stabilire se Berlusconi sapeva o no che Ruby fosse minorenne, e poi la concussione, cioè se ha fatto questa pressione al capo della questura, il capo della questura, insomma, quello della telefonata, no, a Milano. E io ho puntato tutto su questo. Ho dimostrato, secondo i giudici, che Berlusconi non sapeva che fosse minorenne. Però io qua vorrei da Aurora Lussana, una che è per l'amore panico, una che è per l'amore dell'amigdala libera e della riscoperta delle orge primordiali. Sì, quindi non certo a pagamento. Non certo a pagamento. No, è lì la questione. No, scusa. È come Strauss-Kahn. Orge, sì, ma libere. Abbiamo una dimensione contemporanea post-capitalistica. Non ci siamo. Così degradante. Quindi Berlusconi bocciato per queste serate. Io avevo fatto il pota pota contro Bunga Bunga. Che voglio dire. Cos'è il pota pota? No, era il pota pota, era un video simpatico, una risposta un po' padana al Bunga Bunga. Sì, avevamo fatto proprio un video. Sì, ma è vietato ai minori o? Ma no, era una cosa simpatica, un'allegria. Eccola, ma lo trovi in internet. E praticamente Berlusconi ci fa sentire sempre giovani, perché anche io quando stamattina sto scendo in campo mi sono sentita ai tempi del liceo nel 94. E così dai, un eterno ritorno che ci fa sempre sentire ventenni. Scendo in campo, sì, fantastico. Vabbè, devo dire che forza Silvio, meno male che Silvio c'è, e via, esatto. e continuiamo così. Devo dire che stanno arrivando una serie di messaggi lo traduco in maniera mandabile in onda. Sono contenti della tua voce raffreddata. Va bene, diciamo così, andiamo al traffico. 24 mattino. Anche il cittadino italiano insieme a Berlusconi ha urlato nella notte: ma a noi chi ci rimborsa di tutti i quattrini spesi per spiarlo? Ma mi vuoi spiegare come può un presidente del Consiglio, con il sistema di sicurezza che ha, a non sapere chi frequenta casa sua? È uno schifo. Mira, ma io mi domando, ma Berlusconi è comunista o è Forza Italia? Perché ogni volta che i comunisti lo condannavano, sarebbero i giudici, erano tutti comunisti. Adesso l'hanno assolto e i giudici passano Forza Italia. Sono tutti buffoni, buffoni. Ciao Milan, ti saluto. Festeggiamo, godo, lo hanno assolto, ora tutti frustrati dei tuoi ospiti gli rode il culo, io festeggio Don Perignon alla faccia di tutti quei frustratoni. Aurora, da Boschi lasciamola al nostro caro Alessandro Mira, va, sei bellissima. Cara Aurora Lussana, nel caso tu veda Matteo Salvini, gli puoi dire che si tolga quell'orecchino? Ma che cosa vuole concludere con quell'orecchino? Lui è un uomo, è un maschio. Ciao Alessandro, io sì, effettivamente un pochino arrabbiata sono, perché ma è mai possibile che anche due volte alla settimana chiami quella gallina leghista, che poi in questo caso si offendono le galline? Comunque la gallina bollita è una delle cose più buone da mangiare. Sì, ma no, va bene, però capisci che vabbè, due a favore, uno contro. Perrino, qua la nostra Aurora Lussana sai che scatena gli istinti più, no? Primordiali. E quindi va bene così. Ma avete sentito tutti su Berlusconi? Tu godi un po', Perrino, per questa... Ma io sicuramente penso che in Italia verso Berlusconi ci sia stato un accanimento giudiziario veramente potentissimo, e dunque scoprire che alla fine dei tre processi i magistrati fanno un passo indietro fa piacere, vuol dire che c'è un giudice in Italia. Mi spiace per Berlusconi, perché ha subito non come torto, era come dice per no, me, anche perché una condanna definitiva ce l'ha, poi c'è il Rubiter, ci sono altri processi, ci sono altre vicende. Però oggi diciamo che chi come me coltiva un'idea garantista della giustizia gioisce per il fatto che i magistrati non si sono accodati al clima politico generale, ma sono riusciti a esprimere una sentenza molto tecnica ma molto indipendente. Devo dire che uno che la vede a suo modo è Brunetta. Sentite Brunetta, il Brunetta del giorno. Grande dolore e grande amarezza per quello che è successo in questi 5 anni. Si è colpito un uomo che era presidente del Consiglio, si è colpito un paese. Oggi ho detto con una parola forte, si è sputtanato un paese e il suo presidente del Consiglio. Questo l'ha fatto una magistratura, evidentemente, che ha perseguito, molto probabilmente in maniera non corretta, un uomo, un presidente del Consiglio, e ha delegittimato un intero paese, un'intera nazione. Vabbè, Brunetta così. Cara Aurora, qui continuano ad arrivare molti messaggi, il migliore è forse Aurora, un po' di tosillite. Vabbè, e continuiamo alla stregua di questi. Hai visto ieri Maria Elena Boschi? Come era precisa, compunta. Brava, molto preparata, brava, la nostra madre costituente. Sì, rifondiamo la Costituzione. Danilo Gruber, precisa. Senti qui, è Maria Elena Boschi, sì. Per lui si ha una buona notizia. Per noi sinceramente non cambia niente. Berlusconi. Io penso che per lui, per la sua famiglia, sia una notizia positiva e nessuno però deve godere quando nessuno qualcuno va in prigione. Hai sentito come ha detto Berlusconi nessuno? O Mario Aurora? Russi. Però credo che dopo 20 anni possiamo uscire dall'ossessione. Una bella voce, di Berlusconi. Adesso non è che poi va avanti non con le sentenze, ma cosa con c'è? I programmi. No, dico sul babbo non ha risposto con tutte queste S sulla Banca dell'Etruria, sulle azioni che ha lei, la Banca dell'Etruria, il suo fratellino che lavora. Ho letto che €1.000 di azioni a Banca dell'Etruria. Esatto. Beh, c'avevo anche lì un po' di S. €1.000, dai, pochissimo. Sì, no, io non ce li ho €1.000 nella Banca dell'Etruria. No, io non li ho, non so, Perrino, tu hai €1.000 di azioni della Banca dell'Etruria. No, non so neanche dove è la Banca dell'Etruria. No. Vabbè, dalle parti di Arezzo, credo, sì, dalle parti di Arezzo. Retina, come l'Aretino, grande poeta l'Aretino. Ecco. Però è vero che la Boschi sul punto è stata un po' reticente, sì, non ha raccontato bene suo padre, le sue vicende. Però non gli è mai stato chiesto, peraltro, nessuno gli ha mai chiesto. Sì, anche qui si vedono un po' due pesi e due misure, c'è l'accanimento verso Berlusconi e invece una certa tolleranza verso i potenti di turno. È un po' l'Italia. L'Italia è un po' così. Cara Aurora Lussana, qui siamo in chiusura. Che c'è? No. Quindi ci hai detto che Tosi si candida, che tu non ti candidi. Ma guarda che non ti espellono se dici un parere. Ma glielo auguro, è un cittadino libero, può candidarsi. Adesso sì, fuori di Bale è libero. Adesso che è fuori di Bale è libero. Ma decideranno i veneti il futuro della terra di San Marco, no? Straordinario, quello veneto, e si autodetermina e decide chi vuole. Vabbè. Se vuole la Lady Lycock Blu Moretti, se vuole il bravo sindaco Tosi o il bravissimo governatore Zaia. Va bene, ci dai una ricetta in 2 secondi? No, digiuno, perché mi è passata anche la fame. È passata la fame. Ma secondo te Salvini è il sindaco di Milano? Sì? Ah, questa è anche bella, contro Di Pietro magari. A me piacerebbe molto Matteo sindaco di Milano, perché candidano. Ma non lo so. Ma tu lo sai, ma non risponde. Io sono stato con Salvini il giorno lunedì, il suo compleanno. Abbiamo pranzato insieme e ho capito che ci punta. Farà poi la scalata a Roma da sindaco di Milano. Staremo a vedere, ma vi devo salutare. Allora il nostro presidente emerito ci saluta e ci annuncia. E ora giornale radio, viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Radio 24. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 3334-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:19 minuti, cari ascoltatori. Siamo pronti a leggere i giornali. Oggi vi parleremo di legalizzazione delle droghe leggere, perché un deputato, che è anche sottosegretario, Benedetto Della Vedova, ha chiesto e ha scritto a tutti i colleghi dicendo: mi aiutate in questa battaglia. Sentiremo lui, Benedetto Della Vedova, sentiremo l'onorevole Mario Sberna, ma anche contributi del professor Veronesi, contributi di Giovanardi, avremo tanti temi, il ministro della salute Lorenzin. Dalle 8:15 tante voci su questo tema che viene rilanciato ora dal sottosegretario Della Vedova con un'iniziativa personale in Parlamento, che cerca di coinvolgere il maggior numero di deputati e senatori. Ne parliamo dalle 8:15, ora i giornali. E vabbè, la vecchina, come qualcuno la chiama con grande affetto, ci voleva ridire che siamo pronti qui a leggere i giornali. Giovedì 12 marzo, alcuni titoli, perché poi voglio tuffarmi subito nella lettura degli articoli. Il Sole 24 Ore apre con questa notizia: grandi opere, solo l'8% al traguardo in 14 anni, una vicenda incredibile. E poi Berlusconi: siamo ripiombati nel passato. Guardate i titoli: Berlusconi prova il rilancio, Corriere della Sera, dopo la soluzione ovviamente, Repubblica, torno in campo per vincere. No, ricordate lo scendo in campo. Il Giornale se la prende con la Boccassini: questa donna ha distrutto il paese ma resterà impunita. Per Libero: ecco quanto ci è costato il processo a Berlusconi, c'è questa cifra mostra, 500 miliardi, cercheremo di capirla. Il manifesto a Berlusconi che rispunta da una macchina. Cucù, questo è il titolo. E poi il Messaggero: Rai, così cambiano le tre reti. Il Fatto Quotidiano: sfasciano la Costituzione, non sanno spiegare perché. Mentre La Stampa si dedica alla scuola. Scuola, bonus ai professori, restano gli scatti di anzianità. Questo è il titolo di prima pagina. Voglio però partire subito da una tematica che ieri ci anticipava Paola Saluzzi ed è arrivata in Parlamento con un voto che ha fatto anche discutere: lo scontro sulle adozioni al Senato, perché è stata cancellata l'estensione della possibilità di trasformare da affido in adozione ai single. Cancellata l'estensione ai single. Leggo dall'articolo di Alessandra Arachi a pagina 23 del Corriere della Sera. È stato approvato ieri pomeriggio, quasi all'unanimità, dall'Aula del Senato, in una manciata di minuti, il disegno di legge che estende alle famiglie affidatarie la possibilità di adottare i bambini e che ora passa alla Camera, ma non conterrà più la possibilità di estendere quell'adozione anche ai single. L'emendamento era della senatrice del PD Francesca Puglisi, che ha preferito ritirare l'emendamento che lei aveva presentato. Spiega così: quando mi sono resa conto che in aula leggiava lo spettro di un altro provvedimento, quello sulle unioni civili, ho capito che con l'emendamento sui single avrei rischiato di far saltare tutto il provvedimento. Ed eccolo qui, allora c'è una buona notizia, quello della estensione appunto della possibilità di adottare per le famiglie affidatarie, ma subito la politica si divide e litiga sulla questione dello stop ai single, della stessa possibilità ai single. Il senatore Giovanardi dice: ma certo, in un'intervista a Repubblica, è stato fatto perché significava favorire i gay. Ma mi scusi, non le sembra una discriminazione? Chiede Repubblica con Maria Novella De Luca a Giovanardi. oltre la metà dei genitori affidatari sono single e anche i bambini che vivono in queste famiglie hanno diritto alla continuità di affetti e infatti la possono avere attraverso l'adozione speciale, come già avviene, ma devono essere casi attentamente valutati perché non si creino scorciatoie pericolose. L'affido è una strada difficile, così Giovanardi, mentre la senatrice Puglisi, colei che aveva fatto l'emendamento e poi l'ha ritirato, sempre a Repubblica dice: ci sono state troppe storie di sofferenze dietro affidi che non potevano diventare adozioni, però lei ha dovuto ritirare questo emendamento che allargava ai genitori single la possibilità di adottare. Ho fatto un passo indietro per far fare un passo in avanti ai bambini, risponde la senatrice. A volte il meglio è nemico del bene. Quando ho capito che per quella norma sui single il testo non sarebbe passato, ho preferito far approvare la legge. Come dire, ho sacrificato una parte anche importante di ciò che volevo, ma almeno è passata la legge al Senato. Ora va l'approvazione alla Camera. Torniamo a un altro argomento che qualche giorno fa aveva fatto molto molto arrabbiare. La vicenda dei piloti all'Italia in cassa integrazione ma che lavoravano all'estero per compagnie estere, quindi truffando l'INPS. La Procura di Roma ha già aperto un'inchiesta, c'è già stata credo anche un primo patteggiamento. Pignoramenti ai piloti truffatori. Torna al Messaggero su questa vicenda, pagina 9, con Sara Menafra, racconta. Calcoli, riunioni, incroci con gli elementi raccolti all'INPS hanno già portato il comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma a fare una prima stima di quanto è costato all'erario lo scherzetto dei piloti all'Italia che continuavano a percepire la cassa integrazione mentre lavoravano per una compagnia estera. E sapete quanto è la stima della truffa? Si parla di 20 milioni di euro, 20 milioni per circa 400 piloti coinvolti. Le verifiche vanno avanti, sono scattati i primi sequestri preventivi, 300.000 euro, conti correnti, abitazioni. Per il momento le posizioni illecite cui è seguita una denuncia sono 44 per un totale di circa 9 milioni di euro, ma comunque si continua a indagare in questo scandalo incredibile. Come un altro scandalo è quello di cui ci siamo occupati anche in questo caso, dei gettoni di presenza delle farlocche commissioni consigliari. Il caso di Agrigento è diventato il più emblematico, con centinaia e centinaia di convocazioni delle commissioni consigliari del comune, presumibilmente perché si vuole così guadagnare solo il gettone di presenza. Il business dei gettoni di presenza, in realtà le inchieste vanno da Torino alla Sicilia. Così La Stampa, pagina 14, racconta: dopo Torino è toccato ad Agrigento, poi a Messina, ora a Siracusa. A Siracusa, per esempio, dove è la città di Archimede, ovviamente, ma i consiglieri non si sono fatti mancare nulla, racconta La Stampa. 1201 le sedute verbalizzate nel 2014 di varie commissioni. 1201, una spesa di 650.000 euro. Anche in questo caso il comune è in pre-default e anche in questo caso, scrive La Stampa, facce di bronzo quando viene chiesto come mai così tante sedute, al punto che l'altro giorno alcune decine di siracusani si sono presentati davanti al portone del palazzo comunale nel cuore del barocco di Ortigia, hanno urlato la loro richiesta di dimissione di massa ai consiglieri che entravano in municipio per una seduta consiliare. Ieri in comune è entrata invece la Digos, inviata dal procuratore Giordano per cercare di capire cosa sta succedendo a Siracusa. E a lei, anche lì le commissioni consigliari, e a lei. Siamo però al momento dell'articolo che ci fa più incazzare in questa giornata, l'articolo che ci fa tenere le mani ben strette sul volante, e l'articolo e il premio Mani sul Volante oggi va a Grazia Longo. Sulla Stampa ci racconta la strana epidemia a Roma dei dipendenti comunali ammalati per un giorno. Negli ultimi 3 anni sono aumentati da 37.000 a 50.000 i dipendenti comunali a casa malati per un solo giorno. Poi magari coincidenza vuole, racconta Grazia Longo, è il giorno in cui il figlio ha la recita a scuola e magari mettono anche poi la foto della recita a scuola, oppure il giorno in cui c'è un battesimo, il giorno in cui c'è una ricorrenza, ma sono coincidenze. Comunque, racconta Grazia Longo, che aumentano a dismisura rispetto ai 37.000 di tre anni fa, sono aumentati del 35% i dipendenti, casi di dipendenti comunali che restano a casa malati con un certificato medico di un giorno, un giorno, un giorno. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il sindaco dell'informazione. Il sindaco. Cari italiani, ho preso oggi i giornali quando sono arrivato alle 5:30 in redazione, ho detto siamo ripiombati a 20 anni fa, perché i titoli erano scendo in campo. Riscendo in campo, eccomi qua, mi rilancio. Sì, certo, non era scendo in campo, appunto, ma riscendo in campo. Insomma, è tornato Silvio Berlusconi dopo la soluzione per la vicenda Ruby in Cassazione, soluzione quindi definitiva. Sì, c'è Rubiter, ci sono altre questioni giudiziarie, eccetera. Ma Berlusconi ha fatto una festa a Palazzo Grazioli, ha radunato tutti i suoi. C'è Francesca Pascale, ritratta dal Messaggero a pagina 3, che esibisce il tatuaggio. Silvio al polso, Francesca Pascale, tatuato. C'è un Berlusconi che racconta al giornale le lacrime, gli italiani capiscano quel che ho subito, è la fine di un incubo, ma chi mi risarcirà di questi anni di fango e sofferenze? Addirittura Libero quantifica in 500 miliardi il costo per il paese Italia per tutta questa vicenda, perché tutto un calcolo molto complicato che fa Franco Bechis dicendo quanto era il PIL e il debito pubblico quando c'era Berlusconi al potere, poi adesso quant'è il PIL, il debito pubblico con Renzi al governo, e quindi abbiamo perso, ci siamo mangiati 500 miliardi di ricchezza in questi anni. Questo secondo Libero, questo sarebbe il costo indotto del processo e dei bunga bunga. Il giornale tuona in prima pagina: questa donna, cioè Ilda Boccassini, ha distrutto il paese ma resterà impunita. Insomma, toni veramente apocalittici per un processo. I protagonisti sono l'avvocato Coppi, colui che ha fatto assolvere Berlusconi. Fa 3 interviste al Corriere, alla Stampa, al Messaggero. E sono interviste nelle quali racconta la strategia. Leggo da Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, l'avvocato Coppi che dice: il ricorso l'aveva presentato l'accusa che aveva sostenuto non fossero cene eleganti. Si ripartiva da lì. A quel punto discutere se le signorine fossero più o meno disinvolte non aveva senso. Meglio concentrarsi sul fatto che Berlusconi non sapesse della minore età di Ruby. Insomma, in qualche modo Coppi ha affermato, ha detto: è vero, queste ragazze, c'era prostituzione nelle cene eleganti. E Berlusconi l'ha sempre negata. Avvocato: certo, per il piacere del cliente avrebbe avuto senso contestare che fossero prostitute, ma io dovevo economizzare, dovevo avere una strategia processuale, cioè dovevo economizzare il tempo. Non si può parlare molto in Cassazione, avevo 1 ora e mezza ed è stata quasi da record. Ai fini suoi non interessava se la vedrà in confessionale Berlusconi, a quelli del processo sarebbe stato addirittura stupido, difficile dimostrare che in quelle cene si parlasse di Dante o di Benedetto Croce, e dunque dovevo puntare tutto sul fatto della dimostrazione che Berlusconi non sapeva che Ruby fosse minorenne. All'epoca la ragazza aveva 17 anni e 10 mesi, non aveva 12 anni, e fin dall'inizio aveva detto di averne 24, e in ragione del suo fisico era plausibile. Qui l'ho già detto, straordinaria battuta di Jack Nicholson nel film Qualcuno volò sul nido del cuculo, ve la ricordate, quando disse al giudice: ma era minorenne? Signor giudice, ma andava per i 32. Questa, è praticamente la strategia di Coppi, è stata questa. E quindi Coppi ammette che fossero prostitute, che ci fosse prostituzione, ma non conta ai fini processuali. E con la questione che fosse la nipote di Mubarak, Beh, di questo si vantava Ruby, diceva di essere la figlia di una cantante che aveva un grado di parentela con Mubarak, e in una cena Mubarak confermò a Berlusconi, e quindi così. La strategia è questa, anche sulla concussione dice alla stampa l'avvocato Coppi: l'esempio è quello dei bravi di Don Rodrigo. Non c'era bisogno che tirassero fuori un'arma per minacciare Don Abbondio, era sufficiente che fossero i bravi per rendere minacciosa ogni loro parola, ma io ho dimostrato che il capo scorta del premier non era un bravo e quindi Berlusconi non era Don Rodrigo quando ci fu quella telefonata alla questura di Milano. Strategie processuali, strategie politiche, commenti. Ezio Mauro, direttore di Repubblica, torna in prima pagina a dire: si capisce la soddisfazione di Berlusconi, dei suoi seguaci dopo la fine di un incubo per due accuse infamanti. Per chiunque, insopportabile anche per un leader politico, e come ogni imputato Berlusconi ha potuto sostenere le sue ragioni nei tribunali. Ma ricordiamo che l'assoluzione trasformata in una sorta di amnistia personale non va bene. Non esiste forse la condanna definitiva del ex cavaliere a 4 anni per frode fiscale? E poi non rimangono in campo le bugie manifeste sul caso Ruby, bugie irrilevanti giudiziariamente, ma pesanti politicamente. Insomma, Berlusconi, per Ezio Mauro, oggi non ha più alibi davanti alla sua leadership esaurita, benché assolta. Di ben altro tenore e di giubilo le parole di Giuliano Ferrara in prima sul Foglio: storie di puttane e mutande, come reagimmo alla paparazzata di Stato, e reagimmo con la celebre manifestazione "siamo tutti puttane". Mettersi il rossetto, andare in piazza con gli amici e la moglie, dirgliene di tutti i colori, alla Boccassini, al collegio giudicante, perché, racconta Ferrara, beh, uno è disposto anche a sputtanarsi di brutto se debba difendere un'amicizia. È il senso più profondo di 20 anni di incantamento che stavano sfociando in un incubo persecutorio da comune senso del pudore. Non è che un ruolo pubblico ti obblighi a giocare a canasta con le coetanee. Chi l'ha mai detto? Dove sta scritto? Questo è il paese degli Amorini, dei Cherubini, dei Leporello, dei Don Pasquale. A parte che la storiella della nipote di Mubarak era degna del miglior Totò, scrive Ferrara, e chi non possiede il senso humor, peste lo colga. C'era poi quel contenuto della libertà minore in apparenza e non risonante, non pomposo, da difendere con unghie e denti e rossetto, cioè la privacy. Orde di talebane erano scese in piazza contro l'orco, il drago, per la consegna all'ammasso di un femminismo cialtrone, quello del se non ora quandismo, che umiliava le donne, le ragazze, il sesso con tutte le sue furbizie orientali, come direbbe la paparazza in capo. La paparazza in capo è la Boccassini, eh? Il sapore retrogrado, bolso, antigiuridico di quella sentenza, quale che fosse il giudizio del popolo sovrano sulle feste di Arcore, era impalatabile per noi libertini e sessantottini capaci di indossare perfino il loden. E vedete, siamo tornati nel passato. Pannella fa un'intervista al Giorno, e qui siamo addirittura al semidelirio, e dice che Berlusconi gli ricorda lo scandalo di Enzo Tortora, intervistato da Francesco Ghidetti. Addirittura le viene in mente Tortora. Mi viene in mente il dramma della giustizia, così Pannella. La politica è condizionata da sentenze manifestamente ingiuste e dobbiamo umilmente ammetterlo. Quindi dobbiamo fare in modo che prevalga un vero stato di diritto. Berlusconi è un perseguitato, dunque una componente persecutoria è innegabile, dice Tortora. Parla anche il giudice Enrico Tranfa, che si dimise dopo l'assoluzione in appello di Berlusconi, firmò l'assoluzione e si dimise, andò in pensione. Parla per la prima volta con Paolo Colonnello sulla Stampa, pagina 5. Dunque, dottor Tranfa, lei si è dimesso, ma c'è stata la soluzione in Cassazione, dunque le sue dimissioni sono state inutili. No, io ho fatto una scelta personale di vita, ma fu legata all'esito della sentenza? Questo è un dato che non interessa, potrebbe essere legata oppure no. Dico che dopo la legge Severino ora è diventato un reato di difficile accertamento la concussione, perché al di là della minaccia esplicita o implicita non è comunque scontato che si possa dimostrare. E dico, come dicevano gli antichi, che una sentenza definitiva non è quella più giusta, ma semplicemente un punto fermo su una vicenda. Questo fa la Cassazione, non vuol dire che sia condivisibile. se volete leggere tra le righe, il magistrato o ex in pensione Tranfa che firmò la soluzione a Berlusconi in appello e un secondo dopo si dimise, non pare molto d'accordo con, come si, con l'esito finale di questo processo. È che politicamente ora torna Berlusconi, ma attenzione, perché racconta Verdini, racconta il Corriere della Sera, Verdini è pronto alla scissione. Questo racconta Tommaso Labate a pagina 2 del Corriere. Io non faccio correnti, ha detto Verdini, che avrebbe raggruppato i 17 che hanno votato un po' controvoglia le riforme in Parlamento. Io alla festa per Silvio ci vado di corsa, ma nei prossimi giorni aspetto delle risposte. Non faccio correnti, il che vuol dire, evoca la parola scissione. Vabbè, è tornato il bunga bunga, è sparito il bunga bunga, è finito il bunga bunga, riscende in campo e saluto Mauro Meazza. Siamo tornati a 20 anni fa o a 15 o a 10 o a 5 anni fa, caro Mauro. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Vabbè, insomma, ognuno sceglie il divertimento serale che predilige, no? Certo, in qualche modo, certo, o che si può permettere, mi viene in mente... A proposito, appunto, che questa sera tu probabilmente non avrai modo di avere... No, però ieri sera ho visto del gran calcio, ho visto Mourinho uscire dalla Coppa e a me tanto basta. Adesso vabbè, il godimento per interposta persona... Ha segnato Thiago Silva, cuore rossonero, per buttare fuori certo, Mourinho, espulso Ibrahimovic, va bene così. Guardiamo al futuro, guarda che oggi nelle pagine di casa, perché oggi è giovedì... Sì, oggi dopo okay. Il mercoledì c'è il giovedì. Sei sicuro di questa cosa? Sì, sì, sì, sì. Allora, se è giovedì, oggi ci sono le pagine di casa, infatti è così, ci sono le pagine di casa, si parla, oltre che delle prospettive del real estate, quindi futuro un po' dell'immobiliare, anche di quello che potrebbe essere il futuro, il tuo stadio, cioè lo stadio che porterà il tuo cognome, il stadio del Milan, certo, in qualche modo. No. C'è lo stadio Meazza, vuoi mettere? Esatto, e quindi anche per una par condicio facciamo anche uno stadio Milan. Comunque se ne parla perché appunto è uno dei progetti di utilizzo di una certa area di Milano, ma tutti i dettagli li trovi oggi sul Sole 24 Ore, così come è sempre giovedì, no? È giovedì anche adesso. Sì, anche adesso. Ok, allora siccome è giovedì ci sono anche le pagine del Giornale della Famiglia, questa volta c'è un derby, sempre per restare in questione calcistica, crescita versus contro recessione, quindi tra la crescita e la recessione, come sai, il momento che stiamo vivendo, il quantitative easing che si spera ci rilanci verso l'una e ci allontani dall'altra, ebbene trovi tutto spiegato nelle pagine di oggi del Giornale della Famiglia, e questo tanto per darti solo due cose. Ma poi ti voglio dire, tu che sei un grande utilizzatore di Twitter, di questo sì, social media, ecco, riferiamo di questo accordo Twitter con Sky per avere una sorta di giuntura tra quei tweet che sono legati ai programmi televisivi, quindi poter mettere anche dei video, ma insomma ti dice tutto Andrea Biondi, non nelle pagine di Norme Tributi, attenzione, bensì in quelle di Imprese e Territori, che a volte tu trascuri, mi sembra, trascuri le pagine. No, che vabbè, accuse vabbè, che volano così, no, volano no, all'altezza uomo. No, mi è sembrato che fossi distratto quando si spiegavano le pagine, mentre sei diventato più attento a quelle di Norme Tributi. Comunque, allora, proprio per dirti, in chiusura delle pagine di Norme e Tributi, ti invito a leggere quello che riferiamo su una interessante decisione del Tribunale di Roma, che ha fatto una specie di elenco delle spese ordinarie e straordinarie che si devono sostenere per i figli quando c'è stata intervenuta una separazione o un divorzio, quindi facendo proprio un catalogo. Sono argomenti che spesso interessano, quindi te li segnalo anche, mi permetto di segnalarli agli ascoltatori. Ora vado a leggermi tutte le questioni che riguardano il quantitative easing, perché come sai sempre parliamo, spieghiamo attentamente, e ti dico, dovresti darmi 2 euro e io ti ridò 1,85 euro. Ah, ottimo, è un affare. Sono i tassi negativi, se non hai capito leggi la pagina 5 del Sole 24 Ore di oggi sul decreto salva rendimenti. Alessandro Mila, il funambolo dell'informazione. Allora rispondo a tutti quelli che mi mandano i messaggi, ma basta, cambia argomento Berlusconi. Ma sì, io cambio argomento per un giorno, che devi fare quando i giornali ti propongono questo per pagine e pagine, questo leggo. A quelli invece che mi dicono, ma tu speravi che fosse condannato, ma chi se ne frega, Ma la rovina di questo paese è stato ridurre questi 20 anni, 25 anni in un tifo da stadio contro Berlusconi, pro Berlusconi. Ma chi se ne frega? I processi si fanno e vanno come sono andati, e sono andati così. Non me ne fregava niente se fosse condannato o assolto. Va bene? Basta! Ecco. Basta! Basta! E questo lo dovremmo mettere anche per i titoli. I titoli, guardate qui, la politica, Repubblica, il scontro nel PD torna allo spettro scissione. Ecco, io quando l'ho letto oggi questa pagina, che leggete ogni negli ultimi mesi 50 volte a settimana, dici, ti viene da dire basta. Comunque, le cose un po' più concrete. Oggi c'è la riforma della RAI che arriva in Consiglio dei Ministri. Diventerà un disegno di legge, non un decreto, ma ci sono tutte le anticipazioni. Marco Mele sul Sole 24 Ore a pagina 7. L'idea è quella, che cosa? Il modello semplificato della RAI come una SPA pubblica con un capo azienda, il direttore generale nominato dal governo, e la nomina di consigliere di amministrazione che passa dalla commissione vigilanza, come era in origine, al Parlamento, invece ora passa al Parlamento in seduta comune al governo. Alla vigilanza resta il compito di indirizzo e controllo sulla concessionaria pubblica. Sono tante novità, certo la novità forse più concreta, più tangibile, più spendibile per tutti gli italiani è questa, la dare pubblica. Attenzione, vi ricordate quando avemmo il sottosegretario Giacomelli che ci disse sì, a gennaio mettiamo il canone RAI in bolletta e diventa dimezzato di costo, poi non se ne fece nulla. Ma la proposta, udite, secondo Repubblica di Renzi, è questa: abolire il canone della RAI. Avete capito bene? Abolire il canone della RAI. Io non lo so se Renzi ci riuscirà, ma se Renzi facesse questa cosa, credo che potrebbe essere, non so, portato con dei portantini ed eletto imperatore per i prossimi 45 anni da una parte degli italiani. Cioè, questo è un provvedimento di quelli che non cambia molto dal punto di vista economico nei bilanci pubblici, ma abolire il canone della RAI, se Renzi lo fa. E vabbè, altro che abolire l'IMU, vi ricordate? Vabbè, più o meno, insomma, sono quelle mosse che porterebbero a una glorificazione istantanea, forse per molti italiani. Va bene, si litiga sempre anche in Lega. Tosi non dice ancora se si candida o no. Prendo ancora 2 giorni. Certo, quello che dice è che Salvini è un dittatore. Progetta di correre senza partiti, deciderà tra 2 giorni, fa una serie di interviste, alla stampa dice a Zaia stringerei la mano, a Salvini invece no, la colpa di tutto questo è sua, dice, intervistato da Alberto Mattioli. Flavio Tosi si litiga in Rai. Per la cronaca c'è una polemica, io da giorni leggevo con attenzione, anche un po' pruriginosa, diciamo così, l'inchiesta che Laura Alari ha fatto sul Quotidiano Nazionale. Cosa ha fatto? È andata in confessionale, fingendosi una fedele che voleva confessarsi, simulando situazioni del tipo sono una divorziata e vorrei la comunione, caro padre, oppure ho una figlia lesbica che vuole adottare un figlio, cosa faccio? E poi scriveva, violando il segreto confessionale per la Chiesa, scriveva tutto sul giornale. Ieri ha tuonato Carlo Caffarra. Carlo Caffarra è l'arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna, dice nella mia responsabilità di vescovo e come presidente della Conferenza Episcopale sento il dovere di esprimere la più forte protesta per la pubblicazione a puntate su un diffuso quotidiano di servizi giornalistici sulla confessione ottenuti traendo deliberatamente in inganno il confessore, violando la sacralità del sacramento. Si difende sul giorno il direttore Andrea Cangini, dice avevamo messo in conto una reazione del genere ma abbiamo deciso di procedere comunque perché solo così sarebbe stato possibile comprendere e raccontare in termini veritieri e inediti quanto il clero di base corrisponda alla sensibilità di Papa Francesco. C'è anche Avvenire che dedica una pagina, violata la sacralità della confessione, scandalo. C'è un'intervista anche al presidente dell'Ordine dei giornalisti Enzo Jacopino, che dice: non sono queste le inchieste, sono state calpestate le regole deontologiche dell'ordine, della categoria dei giornalisti, non consentono infatti di nascondere la propria identità, agire sotto mentite spoglie se non quando la vita del giornalista è in pericolo, oppure quando il dichiarare identità renderebbe impossibile il servizio. Ma per scoprire cosa la Chiesa preveda sui divorziati o il battesimo non occorre guardare dal buco della serratura. Vabbè, polemica per le confessioni finite sulle pagine del Giorno. C'è solo tempo per la carta costa, il tempo vola. L'articolo più inutile scovato sui giornali che vince oggi la carta costa è un'intera pagina di Alberto D'Argenio sul litigio in Europa. Si litiga, e per che cosa? Per una moneta commemorativa della battaglia di Waterloo. La Francia fa ritirare i 2 euro perché il Belgio li aveva proposti, la Francia non li voleva e gli inglesi ovviamente, ma se la ridono! Ma chi se ne frega! 24 mattino. Sono le 8:20 minuti. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qui. È ora di parlare di droghe leggere legali, controllate e regolarmente tassate. Non sono parole mie, ma queste parole sono un po' il senso di quello che è contenuto in una lettera che il senatore Benedetto Della Vedova ha spedito a tutti i colleghi parlamentari, Camera e Senato. L'obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero di persone che vogliono battersi per la legalizzazione della marijuana, tema dibattuto, annoso. Della Vedova, buongiorno. Buongiorno. Lei è sottosegretario agli esteri, ma diciamo che forse è venuto fuori l'anima radicale che era un po' sopita, ma non è mai sopita del tutto in lei, no? In questa iniziativa, mi pare. No, direi di no. No, ovviamente il governo non c'entra nulla e non c'entra nulla il mio ruolo al governo, è un'iniziativa da parlamentare. Guardi, io 20 anni fa con Marco Pannella e Emma Bonino partecipai a una dimostrazione di disobbedienza civile. Sì. I giorni prima avevano arrestato dei ragazzi a Rimini perché si erano passati, semplicemente per il fatto che siano passati lo spinello, erano finiti in galera e c'erano rimasti per diversi certo. giorni. Noi e voi distribuiste gli spinelli, no? Per simulammo una distribuemmo dell'ACI, venimmo arrestati, io venni processato, condannato in via definitiva. E gli argomenti che usavamo allora, che non erano argomenti di propaganda al consumo nocivo di marijuana come altri consumi nocivi, alcol e tabacco, gli argomenti che usavamo allora, cioè proibite, mandate i ragazzi in galera, tutti questi soldi vengono trasferiti alle narcomafie e il consumo non diminuisce, in più spendiamo un sacco di soldi per la polizia a inseguire. Sono gli stessi di oggi, dice. Dopo 20 anni non è cambiato niente. La situazione è cambiata dal punto di vista politico, faccio 2 esempi. Telegrafici. Negli Stati Uniti, che allora erano la patria indiscussa della guerra alla droga senza quartiere e senza distinzione, per via referendaria peraltro, molti stati stanno cominciando a legalizzare, penso all'Oregon, sì, che è stato il primo, in modo pieno e compiuto il consumo di marijuana, che significa informare, che significa fare campagne di dissuasione, ma renderlo legale, tassarlo, controllarlo e incamerare un sacco di soldi. In Oregon ci hanno rifatto le scuole. Lei... E poi la Direzione Nazionale Antimafia, che ci ha spiegato che il contrasto alle droghe leggere è una guerra persa, costosa e persa. Senta, gli ha già risposto qualcuno, a parte via mezzo stampa, adesso poi le presento anche un collega parlamentare, ma privatamente qualcuno, che le dicono nei corridoi del Senato e della Camera? Guardi, adesso io non sono in grado di dare ancora dei numeri, li darò presto, ma le risposte positive sono tantissime, più di quante io mi aspettassi da parte dei colleghi. Beh, senatori. Ho saputo, per esempio, il Movimento 5 Stelle ha detto: noi faremo parte sicuramente di questo intergruppo parlamentare per questa iniziativa. Forse SEL sarà sicuramente, se li conosco. Ecco. Ma alcuni, ma molti deputati del PD. Ieri Antonio Martino non ha ancora aderito ufficialmente, ma lo ringrazio moltissimo, da grande liberale economista che sa che moltissimi Nobel per l'economia anche, oltre che di altre discipline, si sono pronunciati in modo netto sull'irrazionalità da un punto di vista economico della proibizione, in particolare sulla cannabis. Antonio Martino ha detto che è pronto a farne parte. E insomma, comunque comincia ad accogliere, a raccogliere quello che ha seminato con questa mail. Però le presento, Benedetto della Vedova, le presento l'onorevole Mario Sberna, deputato di Per l'Italia. Buongiorno onorevole Sberna, come sta? Buona giornata, bene, grazie. Uno che ha una vita diciamo politica, perché è stata anche politica anche prima, anche se non in Parlamento, è una vita completamente diversa dalla formazione radicale di Benedetto della Vedova. Sberna, i suoi 5 figli, giusto? Non me ne dimenticano qualcuno. Lei che è stato anche presidente dell'associazione Famiglie Numerose. Uno di questi figli le dicesse: mi sono fatto uno spinello, papà, che succede? Ma che succede? Che a 15-16 anni probabilmente la metà dei giovani si fanno uno spinello per provare, ma questo non vuol dire che sia giusto, che sia bello, che sia... Tanto è vero che poi crescendo evidentemente smettono immediatamente, perché si sa che fa male, insomma. No? Per cui c'è il collega, il sottosegretario Benedetto Dalla Vedova, ci ha raccontato la solita poesia, no? Passata la tempesta, d'ugelli far festa, ma con tutto il rispetto per i Leopardi e per la grande stima nei suoi confronti, è la solita poesia che è da anni che i liberisti ci portano, prendendosi la solita scusa economica del così fan tutti, del tanto non fa molto male, e ci portano a le dimenticare tasse, la verità. Le tasse, esatto. Solita vecchia cioè, storia, le tasse, gli incassi per lo Stato. Certo, i incassi per lo Stato e poi comunque quando c'è, diciamo così, un male, se è anche un male maggiore lo va a coprire, così l'abbiamo eliminato, insomma, no? È un po' negli Stati Uniti d'America, sentivo che ieri, visto che siamo così innamorati delle cose che fanno gli Stati Uniti d'America, sentivo ieri che vogliono reintrodurre la fucilazione come pena di morte, no? Va bene, nello Utah, ma che c'entra? No, qua? O nell'Ohio, credo. Come c'entra? O nell'Ohio, quel cavolo che è. Ma voglio dire, siccome ci sono gli omicidi, allora tanto vale ammazzare la gente, no? Perché poi è la stessa cosa, siccome la gente vuole farsi le canne, compresi i parlamentari, allora liberalizziamo. Ah, è per quello? Dice che è per quello? No, non credo che sia per quello. Però che cosa non le va bene nel punto? Il suo è un giudizio negativo dal punto di vista morale? Da che punto di vista? No, guardi, a me interessa, come dovrebbe interessare a chiunque, il bene comune. Siccome tutte le sostanze che in un qualche modo alterano la percezione, addirittura sulla cannabis c'è lo studio recentissimo di dimostrazione, insomma, che l'uso prolungato porta a schizofrenia, insomma, per cui è effettivamente dannosa per la salute. Allora tutto quello che è dannoso per il benessere dell'umanità, a prescindere dai ragionamenti morali, va abolito, come si intende tradizionalmente, non può essere liberalizzato. Uno Stato ha il dovere dell'educazione. O sarebbe meglio dire legalizzato, perché liberalizzato un po' lo hai già. Della Vedova, la questione è questa: cioè la droga fa male. Anche lei sarà d'accordo, Della Vedova? Uno spinello fa male, comunque farsi le canne fa male, no? Della Vedova, possiamo dire. È un consumo nocivo, ma anche alcol e tabacco sono consumi nocivi, più altre sostanze che ingeriamo quotidianamente. Alcol e tabacco sono consumi ricreativi nocivi. Rispetto ai quali, ricordiamolo, parliamo degli Stati Uniti. Tra l'altro io prima ho detto Oregon, in realtà mi riferivo al Colorado, che è il primo stato che ha ormai un anno compiuto di legalizzazione piena. Negli Stati Uniti c'è stato un periodo in cui l'alcol, consumo nocivo, è stato proibito. E poi hanno fatto marcia indietro. Ieri hanno presentato a Parigi, all'Università di Sciences Po, uno studio sulla legalizzazione della marijuana, in cui sono state fatte alcune cifre. Per il fisco francese una legalizzazione potrebbe portare da 1,3 miliardi a 1,7 miliardi di introiti aggiuntivi, che poi si aggiungono anche ai risparmi che si possono fare sul piano della polizia, dei processi e della galera. Vede, il problema, il mio collega Sberna diceva, ecco, un ragazzo su 2, 3, 15, 16 anni si fa le canne, o si fa una canna, o prova, eccetera, eccetera, adesso non so la cifra, è questa, se è più o meno. Il mio problema è che questo è un dato di fatto, che dopo decenni e decenni di repressione il numero di giovani che si fa le canne, come dice Sberna, aumenta anziché diminuire. Il mio problema è che quel giovane, che si faccia una canna o se ne faccia 10 o 100 o 1000, finanzia la criminalità, finanzia la mafia, la camorra, l'andrangheta. E comunque lo consuma, perché ha ragione lei, questo è il mercato più libero che c'è, la Direzione Nazionale Antimafia ce l'ha detto in modo chiaro, ha fatto dei numeri, ha dato dei numeri enormi, quindi lasciamo il mercato libero, non controllato, senza una verifica meglio sostanze. Invece controllarlo e anche tassarlo. Io vorrei farvi sentire un primo contributo di una persona che non fa mistero di sposare questa causa, è il professor Umberto Veronesi. Umberto Veronesi, sentitelo bene, la raggiunta Elisabetta Fusconi, cosa dice sulla legalizzazione delle droghe leggere? Perché mi batto? Perché ormai la storia va in quella direzione ed è assurdo, dopo la grande esperienza americana del 1933 di proibizionismo dell'alcol, che ha dato luogo a una catastrofe. I proibizionismi siamo in grado di farli rispettare al 100%, se no sono inutili e per di più alimentano la criminalità. Ormai in America ci sono molti stati americani e gli Stati Uniti che hanno liberalizzato completamente la marijuana e sono felici. Pensi che in Colorado dopo un anno sono diminuiti gli incidenti mortali, sono diminuiti i crimini, sono diminuiti i furti e le casse dello Stato hanno incassato $60 milioni. Quindi è chiaro ormai che tutti gli stati americani seguiranno questa linea, quindi non si può andare contro la storia e noi dobbiamo essere rapidi nell'affrontare questa situazione in maniera intelligente. Sono molto lieto che della vedova abbia preso questa iniziativa, perché spero che in Parlamento se ne possa parlare. Perché il problema è che il Parlamento non parla molto dei problemi di evoluzione civile del paese. Ecco, questo è un punto, Sberra, al di là, poi lei dà il suo giudizio su quello che ci ha detto il professor Veronesi, ma dice il Parlamento non parla delle cose che interessano, le battaglie civili del paese. Sberra, sono due questioni, la sua posizione personale e poi questa. Sulla prima questione mi basta rispondere a Veronesi, insomma, che vabbè, c'ha la sua età, quindi con tutto il rispetto, però sarebbe come dire facciamo i quartieri a luci rosse o incrementiamo le slot, perché tanto la gente va lì a buttare sempre i soldi. È lo stesso identico discorso. Ma no, ha fatto un ragionamento, le tasse, il Colorado, non si va contro la storia, il proibizionismo. Ma vedi, siamo sempre nella parte più sensibile del corpo umano, cioè il portafoglio, poi alla fine gira e rigira, la ragione principale è così facciamo più soldi. Sì. Secondo me la storia dell'umanità non va verso così facciamo più soldi, ma al di là di questo è evidente che di fronte, tra l'altro un medico prestigiosissimo come il professor Veronesi sa che stiamo parlando di un prodotto che fa male, tra l'altro il THC è inserito per esempio la marijuana proprio negli Stati Uniti. Ma sì, ma come ci dice della vedova, anche l'alcol, anche il tabacco, nessuno discute che non faccia male. Nessuno è stato liberalizzato, studi scientifici lo dimostrano, è stato aumentato dal 2 all'8%, a 8,5 siamo arrivati, cioè praticamente si incrementa quel prodotto che dà la dipendenza, sì. per aumentare l'incasso delle tasse, insomma. Sì. Cioè, ma capisce dove vogliamo andare a finire? Perché nel Parlamento non se ne parla, scusi, la seconda parte. Guardi, io le rispondo, perché non si parla dei veri problemi della gente in questo paese, cioè sto dicendo dei poveri, delle famiglie massacrate letteralmente da un fisco iniquo, ingiusto, la delega fiscale ancora lì che dorme, perché non se ne parla? Perché non siamo capaci di fare il nostro lavoro? Vabbè, però con questo principio si dice sempre c'è una cosa più importante, con questo principio non si parla mai di niente. Sicuramente la questione della povertà, della crisi, del fisco, delle famiglie in difficoltà è una questione importante, però anche le battaglie che qualcuno reputa battaglie civili sono questioni importanti. Però dopo la pubblicità, tra 4 minuti, rientriamo con il senatore Benedetto Della Vedova, con l'onorevole Mario Sberna. Se volete anche i vostri contributi all'800 24 00 24, parliamo di legalizzazione delle droghe leggere e i temi sono questi. 24 mattino. Le 8:38 minuti, stiamo parlando della legalizzazione delle droghe leggere. Così, come la pensa Vasco Rossi? I giovani sappiano che marijuana è una sostanza che non fa certo bene, ma comunque non è paragonabile all'eroina, che invece è pericolosissima, della quale bisogna stare lontani. di marijuana non si muore. Di marijuana non si muore, così Vasco Rossi. Siamo con Benedetto Della Vedova, senatore, sottosegretario agli esteri, e con l'onorevole Mario Sberna. Vorrei sentire anche Antonella che ci chiama da Roma. Buongiorno Antonella. Buongiorno, io vorrei parlare con quel signore che dice che la non va legalizzata perché fa male. Sì, l'onorevole Sberna. Sono molto arrabbiata, sono una mamma. Sì. Ho i figli di quell'età, quindi si sono fatti le canne perché comunque se le fanno. Allora, chi la pensa come lui butta i nostri figli e li getta proprio in mano della criminalità, perché io vorrei capire che significa questa legge che ti permette lo spinello, ma tu non sai, tu te lo devi andare a comprare nell'angolo della strada, nell'angolo. Spacciatore. Allora, io lei vorrebbe, stato, vorrebbe, pensato... vorrebbe più comodo, bello così, entra in una comodo, farmacia, no. beh, più sì, comodo. Comodo nel senso sicuro per i nostri figli, perché buttarli in mano a questa gente che tra l'altro poi li prende pure per andare a spacciare, perché a quell'età purtroppo i ragazzi sono facilmente... Ma lei diceva che è stato arrestato suo figlio? Sì, perché? Tra l'altro vengono anche presi e i carabinieri, che per uno spinello ti possono prendere e trattare malissimo perché gli dico una cosa traumatizzante proprio... L'avranno accusato di spaccio, dico, signora, l'avranno accusato di spaccio. No, uno spinello fatto fuori casa. Però certo, in teoria il consumo personale non porta in casa. Sì, ma siccome c'aveva la macchina lì vicino, gli hanno detto che... Spacciava, no, perché non gli hanno trovato niente addosso, solo la cicca dello spinello. Tra l'altro, detto che poi questa persona, sì, sì. I carabinieri ti rispondono, perché i genitori vanno, no, a dire, ma ti rispondono che gli spacciatori non gli possono fare niente. Vabbè, no, ma insomma Antonella, lei dice per questi motivi, lo vorrei, ha sentito onorevole Sberna, qui c'è una madre che può... Sì, ho capito, ma è evidente che una madre che si preoccupa di liberalizzare il consumo di qualcosa che fa male al figlio dovrebbe preoccuparsi del contrario, insomma, cioè che il figlio non consumi qualcosa che gli fa male. Normalmente le mamme fanno così, insomma, si preoccupano che il figlio non consumi qualcosa che fa male, e anche uno Stato si preoccupa di questo, cioè si preoccupa il benessere dei propri cittadini. Ribadisco il concetto, non è perché una cosa la fanno così fanno tutti che necessariamente ha a che Guardi, fare con la verità, tante insomma, volte ne abbiamo parlato Sberna, lo Stato che si occupa del bene dei cittadini suona molto come lo Stato etico che ti dice cosa è giusto e cosa è sbagliato. Su questo allora scusi, ma se ci mettiamo insieme e formiamo uno Stato, no, ma sì, d'accordo, ma dopo se arriva un attimo allo Stato che ti dice non mangiare i grassi, se no non ti curo, non fare così perché se no non ti do questo. Non so, Della Vedova, qui lei, che il radicale che è in lei, deve uscire e azzannare Sberna, ovviamente in maniera simpatica. Ma guardi, qui certo al fondo c'è anche un profilo di libertà, e quando Sberna diceva ma allora siccome la gente ammazza legalizziamo l'omicidio, ecco, io spero in futuro di non sentire più questo tipo di argomenti, però è chiaro che, ripeto, il consumo di cannabis, esattamente come il consumo di alcol o il consumo di tabacco, è nocivo per chi lo pratica, questo consumo. Non è nocivo per gli altri. Uno mi dice, se uno ubriaco va in macchina e provoca un incidente è pericoloso per gli altri, che è esattamente quello che succede oggi in modo drammatico, e allora tu non puoi guidare se hai bevuto anche due birre. Lo stesso con lo spinello, è chiaro. Poi c'è un altro punto che Sberna dice, che ho una posizione opposta alla sua. Lui dice, stiamo attenti perché adesso il THC nella cannabis aumenta di due... Ma questo sta aumentando oggi nel mercato libero, non legalizzato e non controllato. Se fosse controllato, c'è lo Stato, c'è anche un modo per controllare le sostanze. Quella mamma che ha telefonato, e siamo tutti genitori, o tantissimi di noi sono genitori di figli più o meno adolescenti, ha detto una cosa sacrosanta, ha detto, come ha detto Sberna prima, che i figli nostri si fanno le canne, e anche persone più adulte naturalmente. Oggi Sberna dice così alla fine si va sempre al portafoglio, ma per me che faccio il politico, che faccio il parlamentare, che ho una responsabilità nei confronti dello Stato e dei cittadini, che quei soldi finiscano alle narcomafie, alla Camorra, alla 'Ndrangheta, che servono per finanziare altre cose delinquenziali, o che invece finiscano al fisco per rifare le scuole, fa una differenza, come fanno in Colorado, o per detassare le famiglie numerose come vorrebbe Sberna, fa la differenza. Però assoluta. Su questa cosa della criminalità vorrei il parere di Sberna, ma prima vi faccio sentire il parere dell'onorevole Giovanardi al microfono di Alessandro Longoni, perché dice una cosa sulla quale io un pochino sono concorde. Sentite Giovanardi. Mi è sembrata un'iniziativa molto estemporanea, molto poco meditata, ma della vedova è da anni che è per la liberalizzazione della droga, quindi io rispetto la sua posizione, non la condivido assolutamente, perché vorrebbe dire, se non altro, arrivare a portare il consumo delle droghe tipo cannabinoidi, che oggi siamo al 3% della popolazione, a livello dell'alcol e del tabacco, che siamo al 30%. La 'Ndrangheta e la Camorra continueranno a gestire la cocaina, l'eroina, l'ecstasy, ogni altro tipo di droga, continueranno naturalmente a farlo con i minorenni o nelle scuole o dove è proibito, magari favorito dal pubblico, per aumentare a dismisura le persone che poi diventeranno dipendenti anche dalla cocaina e dall'eroina, e che quindi faranno aumentare a dismisura gli introiti della mafia, della Camorra, della 'Ndrangheta. Cioè questa del contrasto al crimine, dice Giovanardi, vabbè, ma ci sono le altre droghe. Effettivamente, in che cosa sono d'accordo? Purtroppo i criminali trovano sempre dei modi per portare avanti i propri crimini. Vorrei però su questo Sberna e della vedova. Sberna. Ma oltretutto, certamente questo, oltretutto il senatore Giovanardi parla di quell'escalation nel sempre di più, che è tipica tra l'altro di molte persone che diventano problematiche e da assistere esattamente, da seguire, insomma, proprio perché sono cresciuti sempre di più nel limite, no? Perché quando però si dice, poi, ci dice della vedova, se fosse legalizzato sarebbe controllato anche nella produzione, cioè la quantità di THC, cioè la sostanza attiva, non sarebbe regolamentato anche questo, quindi proprio lo spinello di Stato con tanto di canoni di come si fa e quindi di quanto è la sostanza. Sì, e di fatto si andrebbe appunto a legalizzare una cosa che è profondamente nociva e sbagliata per la società e per le persone. Capito, però su questo, no? Veramente che... anche le sigarette. Sì. Però cioè, vede, però c'è un divieto assoluto, per esempio, c'è un divieto assoluto di pubblicità sulle sigarette. Perché? Mm-hmm. Perché c'è questo divieto assoluto? Beh, perché sulle canne, sono tutti coscienti. Sì, ma le canne le abbiamo scoperte nel dopoguerra qui in Italia, no? Per dire, probabilmente al divieto assoluto ci arriveremo magari tra un po' di anni, perché noi siamo un po' più lenti da questo punto di vista. Il contrario, esattamente. Insomma, mettiamola così, della vedova, ci sono già delle cose che fanno male, lei ne vuol mettere in circolo anche un'altra. Rispetto a quanto diceva Giovanardi, allora, a parte il fatto, scusi se lo ripeto, disco per la quarta volta, ma per esempio una persona come Saviano ha scritto recentissimamente su Repubblica un lunghissimo e documentato e dettagliato articolo proprio per spiegare quanta parte dei profitti delle narcomafie, che poi li usano per inquinare l'economia legale, per fare mille altre schifezze, viene dal fatto che i nostri ragazzi riforniscono le narcomafie ogni volta che si comprano una dose, sì, per farsi, sì, uno spinello. Sul punto delle altre droghe, allora, innanzitutto ci sono le esperienze concrete che sono state attuate, dalla Svizzera alla Spagna, parliamo di cose di più graduali, all'esperienza del Colorado. Non è vero che ci sono stati aumenti nel consumo, questi sono i dati. È vero che tu cominci a segmentare il mercato, cioè a distinguere tra le droghe leggere, chiamiamole. Le cose che chiunque conosce, gente che si fa regolarmente, se non se stessa, le canne. Io stesso mi sono fatto qualche canna da ragazzo, poi basta. Ma poi io non sono mai stato un grande fan di questo consumo, ma mi sono fatto regolarmente come tutti i miei amici, o la gran parte dei miei amici, ci facevamo qualche canna. Cioè, da quanti anni è che ha smesso? Basta adesso. Io credo, mi sono fatto l'ultima canna 25 anni fa. Ah, va bene. Però... però voglio dire una cosa, quindi all'atto pratico non è vero, sì, che c'è un incremento, e in più c'è un ulteriore elemento, che quelle forze di polizia, questo ci dice la Direzione Nazionale Antimafia, non un pericoloso bollettino di Cannaroli, sì? Ci dice, rivolgendosi esattamente al legislatore, quindi a noi parlamentari, ci dice: guardate che noi stiamo combattendo una guerra persa, che non saremo mai in grado di vincere, quella contro la marijuana, consentiteci di usare quelle risorse che utilizziamo per inseguire il mercato delle canne per le cose più però, importanti anche dal punto di vista della droga. Guardi, continueremo questa discussione, ho 20 secondi, ma mi stia in 20 secondi, le faccio sentire una voce che è questa, la voce di una donna che lei dovrebbe conoscere. Drogarsi fa male sempre, fa male utilizzare tutti i tipi di droga. È il ministro della salute, Lorenzin. Lei ci assicura che a livello governativo non le fanno dei problemi, perché lei è sottosegretario dopo tutto. Ma non so, io sono sottosegretario, sono parlamentare e resto un liberale e una persona libera, non credo che mi faranno problemi, se me li faranno, insomma, li affronterò. Li affronterà. Grazie a Benedetto Della Vedova, grazie a Mario Sberna per essere stati con noi, e torneremo su questo dibattito anche per vedere quanti dei parlamentari risponderanno positivamente o negativamente al suo invito, alla sua mail di partecipare a questo intergruppo per la legalizzazione delle droghe leggere. 24 mattino. Lavoratori! Chi non lavora? E allora, cari ascoltatori, ci raccontate il vostro lavoro che ci stupisca, un lavoro che non conosciamo, un lavoro bello, chiamate, raccontatecelo a 24mattino@radio24.it, spediteci una mail e noi vi chiameremo in onda, uno di voi al giorno. Oggi voglio salutare Orsola, buongiorno Orsola. Buongiorno. Orsola ci ha scritto una mail e fa un lavoro, io l'ho dovuta leggere 4 volte, perché, allora, dicelo tu Orsola. Che cosa fai? Dipingo gusci di uova di struzzo raccontando la storia, cioè il piccolo mondo rotondo di una persona speciale per la quale è stato concepito questo uovo. Cioè dipingi uova di struzzo, che sono più grandi, le avete presenti, quindi c'è più, dipingi uova di struzzo e racconti storie, ma è un lavoro che ti permette di vivere questo? Ci stiamo lavorando su pian pianino, ma credo molto in questo progetto, nasce da una grandissima passione che ho e che è quale? Gli struzzi? No. È di dipingere, di raccontare storie e soprattutto di dare molto un senso all'amicizia. Ma ovviamente le storie sono scritte con parole o sono anche disegnate, quindi dipinte con immagini? È una visual storytelling, è l'idea di raccontare attraverso la grafica, quindi il disegno, i momenti salienti della vita di qualcuno o le sue passioni. Non so, io vengo da te e dico, sono Alessandro Milan, voglio raccontare questa parte della mia vita. Tu prendi un uovo di struzzo, ti racconto un po' le cose e tu traduci tutto questo in una visualizzazione, no? Grafica. Beh, bello. Sì, prima ti chiedo di spegnere il telefono, sì? Fermarti. Di guardarmi dritto negli occhi, ma anche di metterti nei panni della persona alla quale tu voglia regalare questo uovo. E l'idea è di mandare due messaggi. Uno, che è quello antico come il mondo, di associare all'uovo un forte simbolismo, è una forma perfetta, molto importante di per sé, ma soprattutto è universale, è globale nel messaggio. L'uovo è un portafortuna, è un simbolo di protezione della vita. Troviamo in Italia il primo guscio di uovo di struzzo dipinto, risale addirittura al VII secolo avanti Cristo ed è conservato in un frammento all'interno è un frammento conservato al Museo di Tarquinia. Ed è stato rinvenuto all'interno della tomba di un nobile etrusco proprio perché simbolicamente aiutava al momento del trapasso l'anima. Ma bellissimo, quindi hai riscoperto in realtà un lavoro antichissimo, un lavoro, allora forse non era un lavoro, ma tu ne stai facendo un lavoro. Io sto facendo un lavoro di recupero di una tradizione popolare, molto desueta, ma assolutamente diffusa in tutto il mondo. Ma come li vendi? Cioè, non so, via internet o porta a porta, oppure hai un'attività proprio, ti vengono a bussare, ti contattano? Adesso sì, prima per cercare di farmi conoscere facevo questa cosa a livello di hobby, ho radunato tutte le uova che avevo fatto ai miei amici, e sono stata chiamata ad esporre ad una mostra di uova dipinte in Ticino qualche tempo fa, sì. e ho chiesto ai miei amici se me ne prestavano per un anno le uova che avevo fatto per costruire un lavoro. Con quelli c'è stato un buon ritorno per la mostra di nome. Poi io ho iniziato a partecipare a mostre mercato di artigianato, sì, raccontando questa storia, le e persone poi si entusiasmavano. Hai un sito, hai un modo per essere contattata, fatti un po' di pubblicità, Sì, grazie. Dillo. È www.piccolimondirotondi.com. Fantastico. E sono anche su Facebook. Comunque scrivete una mail a noi, 24mattino@radio24.it, se non avete colto bene, e noi vi mettiamo. Comunque piccolimondirotondi.com, è bellissimo. Ma so anche, ma non c'è tempo, che tu coltivi camelie rare. Questa magari è un'altra puntata, più avanti, camelie rare. Ma Orsola, una vita straordinaria. Comunque io ti ringrazio e ti mando un grosso abbraccio. Scriveteci il vostro lavoro, ma anche dei sogni o qualcosa che davvero fate che ci stupisce, come Orsola che disegna su uova di struzzo, racconta storie. 24 mattino e tradio24.it, saluto con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Lorenzo Nespoli e il nostro Peter Bescapè, tutti voi, e vi do appuntamento a domani alle 6.30. 24 mattino.